A tempo di sport con Carlo Genta. Buonasera a tutti, Giorgio De Luca in redazione e Fabio Cantadori in regia. Negli occhi abbiamo ancora la bellissima partita di ieri sera a San Siro e una Juventus, come dicevo prima, per la prima volta forse legittimamente da scudetto. Secondo me la Juventus ieri sera ha costruito mattone su mattone all'interno di questa partita molto appassionante. La vittoria più importante degli ultimi 4 anni, o giù di lì, da dopo il terremoto, insomma, dopo il ritorno in Serie A, eccetera. Quella di ieri sera, per molti motivi, anche sottili se volete, è stata probabilmente la vittoria più importante, e abbiamo visto una squadra, che sia una squadra da scudetto lo dirà il tempo, manca qualità probabilmente. Io credo che a gennaio arriverà qualcuno, magari qualcuno da Genova. Cassano poi ha parlato anche oggi, poi vi dico tutto anche su Cassano, e voglio sentire la vostra opinione su questa giornata di campionato, sulla vittoria della Juventus di ieri sera, su un Inter che perde i pezzi, su un sabato che comunque lascia alla Juventus tracce profonde dal punto di vista fisico, perché ci sono due infortunati piuttosto seri che sono Martinez e De Ceglie, ieri usciti anzitempo. Però partiamo dalla cronaca e dai risultati di questo pomeriggio, un po' se non da guardoni, da appassionati veri di calcio, perché non c'erano grandissime partite, non ci sono stati nemmeno moltissimi gol per la verità. Questi i risultati dunque del pomeriggio: l'Udinese che vince 2-0 a Bari, segna due gol bellissimi tra l'altro, segna Alexis Sanchez dopo 16 minuti, parte dalla sinistra, si accentra, quindi da 25 metri spara un pallone all'incrocio dei pali, con Gillet che davvero non può arrivarci, ma nessuno, neanche Mandrà, che sarebbe arrivato su quel tiro che si infila all'incrocio per il gol dell'1-0. Poi il Bari spreca l'occasione del pareggio al quinto della ripresa, c'è un rigore, fallo di Zapata, Barreto si fa parare il tiro da Handanovic, e al quindicesimo l'Udinese chiude i conti con Sanchez che pesca la corsa di Isla sulla destra, diagonale violento di Isla per il 2-0, vittoria meritatissima quella dell'Udinese. Bari in un momento molto difficile, il più difficile delle ultime due stagioni. È importantissimo il successo del Napoli, ferito dalla sconfitta interna con il Milan, a Brescia, partita molto combattuta ed equilibrata, per la verità decide una giocata di Hamsik sulla sinistra e un'incursione a centrale di Ravezzi, per la verità un po' dimenticato dai difensori bresciani. Già che siamo in argomento, vedo che sta parlando Mazzarri con Sky, lo peschiamo subito. Intanto, se lo dice un esperto di calcio come lui, mi aiuta a far crescere questa squadra e di conseguenza la piazza tutta. Insomma, ci vuole, nel calcio non si inventa niente, ormai nel nuovo calcio bisogna programmare, bisogna fare le cose un gradino per volta, perché altrimenti poi si creano false illusioni e si fa solo del male, e questo mi fa tanto piacere, quell'equilibrio dimostrato da Mauro. Per oggi avete dato un segnale importante, segnale di grande squadra, siete andati in vantaggio probabilmente nel miglior momento del Brescia e avete avuto il carattere di mantenere quel vantaggio, segno che evidentemente dagli errori si può crescere, si può imparare soprattutto dagli errori. Allora, noi abbiamo sofferto perché in contropiede qualche volta il Brescia ha creato qualche pericolo, però la partita, se l'avete vista tutta, da un punto di chi ha fatto la partita, l'abbiamo fatta sempre noi, sia nel primo che nel secondo tempo. È chiaro, poi soprattutto anche dopo che siamo andati in vantaggio ci hanno creato qualche apprensione, perché le tentano tutte le squadre, è entrato Possanzini, insomma è normale su un campo difficile come Brescia, con una squadra comunque tecnicamente valida. Io credo che il Napoli, come ha detto Mauro, ha fatto una bella partita, aggiungerei che comunque l'ha fatta sempre il Napoli come se giocasse in casa, il Brescia andava di rimessa, qualche volta nel secondo tempo ci ha messo in difficoltà, soprattutto su due piazzate. Vabbè, Mazzarri, questo Mazzarri che naturalmente tira acqua al suo mulino, era grosso modo partita da pareggio, risolta appunto nel finale, 32esimo, da questo gol di Lavezzi. Il Cagliari batte 2-0 il Bologna al sesto della ripresa, il cross di Cossu dalla sinistra, molto bello, per il taglio di Nenè, destro al volo di piatto, gol dell'1-0 per il Cagliari, che raddoppia e chiude al 34esimo, naturalmente sempre del secondo tempo, con un destro al volo di Nainggolan su respinta corta della difesa bolognese. La Sampdoria, ovviamente senza Cassano, che era a casa e che ha rilasciato dichiarazioni che poi vi leggo. Sampdoria che vince a Cesena, Il gol al 92esimo lo segna Pazzini, è un gol piuttosto facile perché la gran parte del lavoro la fa Marilungo, che fugge sulla destra, cross basso e Pazzini a porta vuota su una difesa cesenata e piazzata in maniera quantomeno rivedibile. Quindi 0-0 tra Parma e Chievo. Parma ha giocato molto bene, per la verità, questa partita, è stata a tratti anche divertente. Secondo tempo in inferiorità numerica prolungata per il Parma, perché Zemaili è stato espulso al quinto per doppia ammonizione, quindi parità numerica ristabilita al 39esimo per l'espulsione di Fernandez. Detto della Lazio, che ha vinto, lo diciamo prima nel GR, come fanno le squadre che stanno bene, come fanno le squadre che hanno il vento in poppa, con grande umiltà, come ha detto Lotito, con grande convinzione. Lazio capace di soffrire le sfuriate del Palermo, di passare con Diaz al 27esimo del primo tempo, quindi di difendere questo vantaggio e di arrivare al derby, al traguardo del derby. La settimana scorsa parlavo di primo intertempo stagionale, no? Quello delle feste dell'1-2 novembre, delle feste dei Santi. Primo intertempo stagionale, ecco, la Lazio ci arriva prima in classifica e scavallerà questo primo intertempo stagionale, perché i punti in classifica di vantaggio sull'Inter restano naturalmente 4, però il Milan ieri ha perso, dunque 4 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, primato assolutamente meritato della Lazio. C'è chi, come Aldo da Cosenza, che scrive: se si può pensare alla Juve al titolo, figurati la Lazio con 7 punti in più, un po' di obiettività. Obiettività vuole che magari miracoli accadono, anche se ho dei dubbi, magari la Lazio arriva anche al terzo intertempo stagionale, quello di Pasqua, in testa alla classifica. Io però non ci credo, secondo me a quel punto la splendida Lazio sarà stata scavalcata da squadre che sono onestamente più attrezzate, come ad esempio Milan, Inter e Juventus. In quale ordine sarà il bello? Sarà la cosa bella da scoprire nelle prossime giornate di campionato, perché tale equilibrio e tali spunti di interesse sinceramente non me li ricordavo nelle ultime stagioni. Dopo il traffico vi do la classifica e magari cominciamo a chiacchierare insieme, abbiamo anche degli ospiti naturalmente in scaletta. 800 24 00 24, numero verde. www.ecopolis.fieraroma.it. L'ambiente e la gestione sostenibile delle città si incontrano. Vi presenta Strade in diretta. Sulla 7 Milano-Genova, verso Milano, ci sono code per un incidente tra Genova Bolzaneto e Busalla. Le code verso Genova, sempre in A7, tra l'innesto con la 12 Genova-Livorno e quello con la 10 Genova-Ventimiglia, sono per lavori che si sono resi necessari dopo un incidente. È il maltempo a condizionare la circolazione al nord e su buona parte del centro. Continuerà a piovere almeno fino a domani. I fenomeni più forti proprio tra Liguria e Toscana, ed è allerta anche per l'intera fascia prealpina. Noi torniamo tra mezz'ora. A tempo di sport. Dunque, vi leggo la classifica come promesso: Lazio 22, Inter 18, Milan 17. A 15 punti troviamo la coppia Juventus-Napoli. 14 punti per Sampdoria e Chievo, a 13 l'Udinese, che un mese fa era ultimo in classifica e che sta vivendo un momento splendido anche sul piano del gioco, perché oggi a Bari ha dominato l'Udinese. Quindi Roma 12, e così arriverà al derby con 10 punti in meno rispetto alla Lazio, chi l'avrebbe mai detto. Quindi Palermo, Genoa e Lecce 11 punti, Cagliari 10, Catania, Brescia 9, e in fondo troviamo al momento 5 squadre in attesa del posticipo di questa sera, Catania-Fiorentina. Troviamo 5 squadre che sono appunto Fiorentina, Parma, Cesena, Bologna e Bari. Questa la classifica. Vi voglio leggere, per aggiungere altri spunti, le dichiarazioni di Cassano di oggi. Allora, Cassano ha detto di essere dispiaciuto per quanto accaduto, e peraltro ho già chiesto scusa al dottor Garrone, al quale voglio molto bene, in presenza dei compagni di squadra. Ai miei compagni faccio un grande in bocca al lupo per la partita di oggi a Cesena, l'ha detto, dichiarazioni battute dalle agenzie alle 14.05. Questo in bocca al lupo ha portato fortuna alla Sampdoria, che, come vi ho raccontato, è passata all'ultimo minuto, anzi al secondo minuto di recupero, con il suo gemello, o ex gemello, forse meglio ex gemello, Pazzini. Quindi, aggiunge Cassano, ho letto che tutta la vicenda sarebbe collegata a speculazioni di mercato, ma ribadisco che sempre che ce ne sia la possibilità è mia ferma intenzione rimanere alla Sampdoria. Altre dichiarazioni: i fatti descritti da alcuni organi di stampa col chiaro intento di mettermi in cattiva luce, e ci sono riusciti anche questa volta. Non è questa la sede più opportuna per contestarli perché è roba da avvocati, ma non tengono conto di quanto accaduto precedentemente e non tengono conto di quanto più volte da me spiegato alle persone che mi sono vicine, ovvero del particolare momento che sto vivendo insieme a mia moglie. Se voglio starle vicino il più possibile, compatibilmente con i miei tantissimi impegni agonistici, un motivo ci sarà, ma non vedo motivo di rendere pubblica la mia privacy. Si dicono e si sentono un sacco di cose su Cassano, ne ho sentite alcune anch'io, poi magari ve le dico, ma sono giusto... siamo giusto quasi al livello del pettegolezzo. Vedo però che sta per parlare il suo ex allenatore, non so se usare punto interrogativo oppure no, comunque sta per parlare di Carlo. Devo dire molto, no, dicevo povero Mimmo, perché insomma Mimmo è stato sempre un medianaccio, uno di quelli che gli piaceva giocare, correre, picchiare, poi da allenatore a un allenatore che gli piaceva, adesso si ritrova in queste... situazioni che poco hanno a vedere col calcio giocato, quindi mi immagino la sua difficoltà. Quanto, che sospiro non ha tirato Di Carlo rispetto alla settimana che oggettivamente non si può che definire strana, difficile, di quelle che non capitano mica, anzi capitano veramente raramente? Beh, intanto un saluto a tutti e complimenti per il vestito, perché è un colore da qui che si vede è veramente bello. Fucsia, grazie. Ilaria D'Amico di fucsia vestita. No, primo dribbling riuscito. La partita, parlando della partita, parlando di Pazzini, parlando del che noi siamo stati eliminati al 93esimo dal Werder Bremen, oggi è tornato quello che io dico da un po' di tempo, che la squadra è in crescita e oggi ha creduto fino alla fine contro un Cesena che ha fatto una buona gara, perciò bisogna fare i complimenti anche al Cesena, però oggi la Samp sta crescendo sempre di più e mi è piaciuto il carattere, la voglia, il tenerci e sprintare e crederci fino in fondo come abbiamo fatto a San Siro, perché a San Siro noi gli ultimi tre minuti abbiamo avuto tre occasioni da gol a San Siro con Pazzini, questa volta è andata bene e chiaramente siamo contenti tutti, anche perché come abbiamo detto una settimana un po' particolare, però io alleno una squadra, alleno una società, c'è una società importante, alleno una squadra che sono fatta di 26-27 giocatori e chiaramente a seconda delle caratteristiche che vanno in campo, più tecniche o meno tecniche, o più forza, più velocità o più profondità, è l'importante che abbiano una mentalità, e questa la Samp in questo momento qui ce l'ha. Questo è Mimmo Di Carlo dunque, che prova a destreggiarsi tra i paletti. Io però adesso vorrei parlare della partita di ieri sera, che è il senso, secondo me, il succo di questo weekend, e vorrei farlo con due ospiti: Fabio Monti, storica firma del Corriere della Sera e nostro amico. Ciao Fabio. Buonasera a tutti, ciao. E c'è anche Mirko Graziano, inviato della Gazzetta dello Sport. Mirko, buonasera. Buonasera a tutti, ciao Fabio. Ciao, ciao. Fabio Monti, se dico Juventus che ha fatto la vittoria, ha centrato la vittoria più importante degli ultimi 4 anni, sei d'accordo? Sì, sì, mi è venuta in mente una vittoria che la Juve aveva fatto a San Siro nel 1976, al primo anno di Trapattoni allenatore, perdeva 2-0 con il Milan, era poi riuscita a vincere 3-2 ed era stato l'inizio un po' di quel braccio di ferro col Torino che poi avrebbe concluso vittoriosamente di un punto. È stata una vittoria fortemente voluta, costruita direi con proprio una determinazione feroce, che è una frase magari un po' fatta, ma questa volta mi pare che vada bene, comunque non ne trovo una migliore. Basta vedere come si sono battuti tutti anche nei momenti più difficili, quando il Milan sembrava schiacciare la Juventus. Sì, è anche la mia impressione, quella di una squadra che sia adulta, e non è un caso secondo me, e giro la considerazione anche a Mirko Graziano, che il migliore, quasi il simbolo di questa Juventus che ha voglia di rivincita, sia Felipe Melo, uno che la scorsa stagione ha preso solo sputi e insulti dai suoi tifosi e che dopo i mondiali ha dovuto lasciare l'aeroporto di Rio, di San Paolo, non ricordo, con la scorta armata. Adesso è sceso dalla croce, ha piantato tutta la sua rabbia in mezzo al campo, basta vedere come ha esultato dopo aver salvato quel gol sulla linea su quella bomba di Ibrahimovic, tra l'altro mettendo la testa su quella sassata. Mirko. Sì, poi aveva due motivazioni ieri, era motivato due volte, giocava anche contro un gruppettino di brasiliani che è appena tornato in nazionale, lui che dalla nazionale ne è uscito ma che ci vuole tornare. Secondo me ha giocato anche per Menezes, cioè voleva fargli vedere che è un giocatore completamente diverso, e lo è un giocatore completamente diverso, è un giocatore che Del Neri ha responsabilizzato alla grande in maniera molto saggia, perché Del Neri si è presentato all'inizio di questa stagione senza grandissimi giocatori. Felipe Melo invece potenzialmente è uno di questi grandissimi giocatori, ci ha puntato, ha avuto ragione finora, in effetti non ha sbagliato praticamente una partita fino adesso, ed è il cuore di un centrocampo che comunque anche a livello tecnico e tattico è un centrocampo già di altissimo livello. Ecco, forse l'unico reparto dove la Juve non ha nulla da invidiare a nessuno, sia in Italia che in Europa. Sì, un centrocampo che perde però altri pezzi, centrocampo e difesa, perché De Ceglie, anche qui quasi il segno di, non so, forse esagero, però la voglia di metterci le gambe, perché De Ceglie è uscito con una frattura alla rotula, è la notizia di oggi, dovrà stare fuori 3 mesi, per Martinez pure frattura, scomposta del secondo metatarso del piede sinistro. De Ceglie con una rotula rotta ha cercato di rimanere anche in campo. Questo forse è testimonianza della voglia di andare addirittura oltre il dolore. Dopo la Juventus è arrivata a costruire questa magnifica partita, Fabio, dopo una settimana secondo me che è stata peggiore, la settimana è stata peggiore rispetto alla simulazione di Krasic, secondo me, perché la furbata, che peraltro è molto costosa di questi tempi di ipertecnologizzazione, perché ti beccano e non c'è dubbio, la furbata quasi, mi voglio dire, fa parte del gioco. La settimana che ne è seguita, col tentativo inutile di difesa di questa furbata, è stata peggiore del tuffo stesso. Sì, perché poi il tuffo, insomma, è stato anche un fatto di non bello, ma un fatto quasi di gioco, se non esatto, fosse per la gamba esatto, un po' tirata, esatto. Perché non era neanche una verissima simulazione, insomma, però quello che ha lasciato perplessi è stata quella gamba tirata, proprio alla ricerca, insomma, di un ostacolo che poi non c'era, insomma. E questo non è stato bello, e non è stato tanto bello la difesa. Io penso che quando succedono queste cose bisogna incassarle e portarle a casa. Bravissimo. Insomma, però mi pare che la vittoria della Juve di ieri sia importante, se è all'inizio veramente di una squadra che guarda più al futuro che al passato. In questa settimana mi pare che si è molto parlato del passato, anche non solo da parte della Juve, ma anche magari da parte dell'Inter. Se si riesce a guardare al futuro, forse è meglio per tutti, insomma. Sono perfettamente d'accordo. Forse un altro risvolto della partita di ieri sera sarà quello di indurre, caro Mirko, la Juventus a smetterla di guardarsi alle spalle, perché magari davanti c'è qualcosa di interessante. Beh, guarda, ti posso garantire che al di là di alcune schermaglie dialettiche, forse anche date tra virgolette in pasto ai tifosi, la società è completamente proiettata al futuro, lo ha dimostrato col tipo di mercato che è stato fatto, col tipo di politica anche a livello di ingaggi che è stata fatta, con lo stadio nuovo ormai pronto e con anche una grossa attenzione al mercato, forse anche a gennaio, perché a questo punto potrebbero davvero prenderci gusto. Se questa Juventus così incerottata e diciamo non almeno qualitativamente all'altezza delle prime pretendenti allo scudetto riesce a essere attaccata a gennaio, e beh, allora forse in un anno così anomalo, dove anche la Lazio è lì che stacca tutti, forse di fare uno sforzo prima di giugno, di portare a casa magari un paio di giocatori, un difensore, un attaccante vero, per provare quantomeno a centrare in maniera agevole uno dei primi 4 posti, e poi magari chissà, perché il lavoro di De Neri a questo punto forse merita davvero un premio. La Juve ieri ha dimostrato di essere squadra, ma ha dimostrato di essere un gruppo di giocatori pronti a tutto per il proprio allenatore. Ieri De Neri ha dimostrato di avere in pugno completamente la squadra. Verissimo. Ho visto Quagliarella giocare a letto, ho visto Sissoko entrare all'ala destra e andare su tutti i palloni come un pazzo, Melo era un invasato. Insomma, erano giocatori che hanno dato tutto e di più. Sì, tra l'altro Juventus che ha già portato a casa 4 punti da San Siro, una gara eccellente con l'Inter e poi la partita di ieri sera. Fabio Monti e Mirko Graziano, vi chiedo ancora una considerazione invece sul Milan, che in questo momento di grande, secondo me, ha soltanto la presunzione di continuare a giocare con questo assetto, regalando costantemente il centrocampo sul piano numerico e sul piano fisico agli avversari. Fabio. Sì, questo è abbastanza vero. Io credo che se Allegri decide di giocare in questo modo, è necessario che chi sta lì davanti migliori la mira, perché al momento in cui la Juventus ha segnato il gol con Quagliarella, il Milan poteva essere in vantaggio di 2 gol, però siccome si stava 0-0, da lì è cominciato tutto, sono cominciati tutti i problemi dei rossoneri. Allora, se si gioca così bisogna fare più gol. Andando avanti il Milan fino adesso a una media di poco più di un gol a partita, o comunque vincendo con un gol di scarto, secondo me fanno fatica, anche se ieri alla fine il Milan, al netto di forza della Juve e di tutto quello che si è detto, poteva benissimo pareggiare. Insomma. Sì, tu hai letto nelle tue pagelle migliore del Milan giustamente Ibrahimovic, quello più vicino al suo valore assoluto nel Milan di ieri. Mi sembra che Ibrahimovic ha confermato di essere un giocatore straordinario, che magari, come dice Sacchi, non gioca per la squadra, però gioca al servizio della squadra. Sì. Mirko? Ah, io sono perfettamente d'accordo con Fabio, io credo che se Allegri non vuole affondare deve assolutamente costruire la squadra tutta su Ibrahimovic e magari deve cominciare anche a pensare di lasciare fuori anche più di un giocoliere. Con i giocolieri nel campionato italiano non si va da nessuna parte, soprattutto poi quando affronti dei veri marpioni della panchina. In questo momento anestetizzare questo Milan non è un grosso problema per nessuno. Se invece Allegri comincia a giocare solo per Ibrahimovic, come Mancini fece il suo primo anno all'Inter, allora non ce n'è più per nessuno, perché questo è un giocatore che da solo può veramente vincere in Italia. Poi in Europa il discorso è diverso. Bravissimo, sono d'accordo. Il problema è che c'è, bisogna vedere come la pensa il proprietario, che in questo momento ha molti altri guai, però credo che la decisione non passi solo da Allegri. Quello, infatti, il problema è quello. Allegri deve avere, tra virgolette, il coraggio di prendere alcune decisioni, ma se no ne va anche del tuo futuro al Milan, perché affonda lui, prima di affondare lui, non è che affonda la società, affonda l'allenatore. Questo sì. Grazie Mirko, buon lavoro. Grazie a voi, ciao. Fabio, anche l'Inter va verso Londra con un sacco di problemi fisici, perché i problemi fisici ce li hanno tutti, non solo la Juventus. Anche Julio Cesar sta in infermeria con Cambiasso. Sì, beh, quest'anno c'è stata una moria e una serie di infortuni veramente fuori dall'ordinario, insomma. È proprio la rosa un po' ristretta, ovviamente gli anni passano per tutti, anche per gli interisti, non solo per noi, e vengono da una stagione dispendiosissima, tremenda dal punto di vista non solo fisico ma anche mentale, con quello che hanno dovuto dare per arrivare a conquistare i 3 trofei, poi in molti sono andati a fare il mondiale, quindi le cause sono tutte chiare. Quest'anno la società ha scelto di non investire direttamente in grandi nomi per un rinnovamento che comunque sarà indifferibile l'anno prossimo, e adesso si tratta di vedere come l'Inter riesce a gestire questo momento che è molto delicato. Sì, ma il fatto di essere lì davanti al Milan a 4 punti da questa meravigliosa Lazio, con tutti questi infortuni, quindi di riuscire a tenere il passo nonostante tutti questi problemi, è un segnale di forza, oppure quest'Inter è attaccabile dalla concorrenza? No, l'Inter è attaccabilissima dalla concorrenza. Il segnale si è visto anche nella partita nel secondo tempo con il Genoa, nella seconda parte della ripresa con il Genoa. Sicuramente la squadra non è appagata e ha una voglia straordinaria di vincere, questo sì, però poi bisogna vedere se ci sono le forze, se ci sono gli uomini. In questo momento non mi sembra che la squadra sia nelle condizioni di pensare allo scudetto, semmai è un posto in Champions, di più io non vedo in questo momento. E chi vedi per lo scudetto? In questo momento per lo scudetto non so, io pensavo sinceramente al Milan, penso ancora e concretamente alla Juve, sono curioso di vedere fin dove arriva questa Lazio. Grazie Fabio, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie Fabio Monti, abbiamo guardato un sacco di temi, adesso però voglio la vostra voce, 800240024, breve pausa e poi qui. Non mi sposi più, ma Pucci, ho tradito la tua fiducia, mai, Pucci, tu sei il solo a non saperlo. Per un'azienda avere corrette informazioni sui propri partner è essenziale. Credit Reform Italia, con il servizio rapporto classificato, ti assicura l'informazione commerciale su tutte le aziende italiane con un clic. Credit Reform è leader in Europa per le informazioni commerciali online. Meglio saperlo prima. www.creditreform.it, numero verde 800 425 325. Vi parla il vostro comandante. Dal 30 novembre al 2 dicembre decollerà in Fiera di Roma Italy Airspace Expo, salone internazionale dedicato ai settori aviazione civile, business e militare, ai sistemi e mezzi di difesa aerea, terrestre e spaziale, ai settori logistica, infrastrutture, apparecchiature e servizi per gli aeroporti, all'area di ricerca, tecnologia e ingegneria per l'aviazione e agli elicotteri e aeromobili. Prendi al volo l'occasione di far partecipare anche la tua impresa. Allacciate le cinture e si parte per Fiera di Roma! Dal 30 novembre al 2 dicembre. www.fieraroma.it. È ora di dire basta ai soliti privilegiati. Sì, ai commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, aziende. Già con i software Buffetti fatti apposta per loro risparmiano grane, tempo e denaro. Da quando poi Buffetti gli ha messo a disposizione un consulente che li segue e li consiglia in persona, cosa volevano di più? Vuoi saperne un'altra? Per gli approfondimenti gli danno anche le banche dati Buffetti e la rivista Consulenza. Basta, troppi privilegi con il sistema Buffetti. Come? Vuoi essere privilegiato anche tu? Vabbè, cerca su buffetti.it il consulente software Buffetti più vicino e di che ti mando io. Legal Mail, la migliore posta elettronica certificata. È un prodotto InfoCert. Vi presenta Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Anche domani insisteranno condizioni di maltempo con piogge e rovesci in estensione dal nord e regioni occidentali verso il settore adriatico e il sud. I fenomeni saranno particolarmente forti al nord-est e al centro e in serata anche al meridione. I forti venti di scirocco manterranno clima relativamente mite, con valori massimi di nuovo oltre i 20 gradi al sud. Sulle Alpi avremo soprattutto piogge, infatti la quota neve oltrepasserà i 2000 metri. Per quanto riguarda i mari, infine, rimarranno molto mossi o agitati l'Adriatico e lo Ionio. Per maggiori dettagli consultate il sito meteo.it. E per il meteo è tutto. Dai, passa il telecomando. No, è uno di quei documentari su Mufloni, no! Oh, anche i tuoi film d'amore essere noiosi. Sì, ma io almeno non mi addormento sul divano. Ma è questo divano letto, è così comodo. Il problema non è il divano, sei tu, Muflone. Se siete soci IKEA Family, dal 1 al 30 novembre, con una spesa minima di 200 euro sui divani letto, avrete un buon acquisto di 20 euro spendibile a dicembre 2010. IKEA.it. Un euro, due euro, tre euro, 2200 euro. È questo che Arca Previdenza può farti risparmiare all'anno sulle tasse. Fai bene i tuoi conti. Per il tuo futuro scegli Arca Previdenza, il fondo pensione aperto più scelto dagli italiani. Con 5 linee di cui 2 a capitale garantito, trovi sempre la soluzione più adatta a te. Vai su arcaprevidenza.it. Arca SGR, più valore al tuo risparmio. Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere nota informativa e regolamento. Buongiorno, sono Paolo di Vodafone Partita IVA. Paolo, sono Tiziana. Ho un negozio di abbigliamento e vorrei risparmiare sulle spese telefoniche della mia attività. Se passa a Vodafone Partita IVA, può avere la DSL senza limiti e le chiamate verso i suoi collaboratori tutto incluso a soli 20 euro al mese. Che risparmio! Quindi passa? Certo, passo. Se hai un'attività, passa anche tu a Vodafone Partita IVA. Scegli ADSL e mobile. Hai la DSL senza limiti e tutte le chiamate verso i tuoi collaboratori incluse a partire da 20 euro al mese. Info su Vodafone.it all'800 127 777. Vodafone. State ascoltando un programma offerto da Eni a tempo di sport. Entriamo con molti ascoltatori in linea, ma subito a Cesena, dove c'è Emilio Butoro che ha un ospite molto importante. Sì, sì, grazie Carlo. Io sono in compagnia del direttore generale della Sampdoria, Sergio Gasparin. Ringrazio per la sua disponibilità. E il dirigente della Sampdoria mi ha fatto una raccomandazione prima di questa nostra chiacchierata: nessuna dichiarazione, nessun commento sulla situazione Cassano fino alla pronuncia del collegio arbitrale. Allora direttore, le chiedo subito, intanto questa Sampdoria può sorridere almeno per il discorso di Bassini tornato al gol? Sì, è tornato al gol, ha disputato una partita sicuramente positiva. Pochi minuti prima, con una grandissima parata, Antonioli mi aveva tolto la soddisfazione di esultare, cosa che invece è avvenuta al 92esimo, che ha deviato in rete un grande cross di Maridungo dalla destra, e credo che meritatamente abbiamo portato in porto questa partita così difficile, così sofferta, ma così giocata in maniera positiva, soprattutto nell'ultimo quarto d'ora dove abbiamo messo in grande difficoltà il Cesena. Ecco direttore, questi tre punti maturati, come giustamente diceva lei, proprio in estremis, sono davvero punti pesantissimi. Sì, sono punti molto importanti quando soprattutto fanno seguito a una gara come quella che abbiamo giocato a San Siro con l'Inter, dove eravamo in vantaggio sino a una decina di minuti dal termine e precedentemente avevamo vinto in casa con la Fiorentina. Siamo imbattuti in campo esterno, quindi da questo punto di vista direi che la squadra sta crescendo, sta dando continuità al progetto tecnico che abbiamo costruito nel corso dell'estate, molti giovani che stanno trovando impiego con continuità, e quindi direi che tutti gli ingredienti di questo risultato e di questo cammino sono sicuramente positivi. Carlo, il direttore di Sente, non so se hai qualche domanda dallo studio da fare. Una domanda sola per Gasperin. Non voglio parlare di Cassano, però questa vittoria dimostra che può essere questa squadra può essere da corsa eventualmente anche senza Cassano. Come ha detto il suo collega qui da Cesena poco fa, noi le argomentazioni che riguardano questo tipo di aspetto abbiamo deciso complessivamente come struttura aziendale, come squadra, come società, di non effettuare nessun commento sino alla pronuncia del collegio arbitrale. Poi godiamoci questa Sampdoria che oggi ha ottenuto la prima vittoria esterna in un campo molto, molto difficile, molto ostico. Ecco, noi siamo soddisfatti, contenti e in questo momento soprattutto per il risultato che hanno conquistato i ragazzi. Avete un'idea di obiettivo, vista la stranezza di questo campionato? No, l'obiettivo, come abbiamo detto nella preparazione di questa stagione sportiva, quindi circa 6 mesi or sono, era quello di dare continuità ai protagonisti della grande cavalcata della passata stagione e andare a inserire in un organico, in un telaio collaudato, un insieme di giovani da Coma a Marilungo, da Volta a Rossini, che nello scorso campionato erano in prestito, in compartecipazione con altre società, ma non avevano giocato con noi. Quindi un integrare la squadra della passata stagione, anche perché siamo in corsa su 3 obiettivi che sono campionato, Europa League e Coppa Italia, e quindi c'è la necessità di avere una rosa allargata. Io la ringrazio Sergio Gasperini, direttore sportivo della Sampdoria, ringrazio Emilio Buttaro da Cesena, e comincio a parlare con i miei amici ascoltatori. 800 24 00 24 numero verde, Moreno, Giulio, Giuseppe, già in linea. Moreno, buonasera, provincia di Milano. Buonasera signor Genta. Salve, dica. No, io ho sentito prima nel collegamento col TG che praticamente Cassano potrebbe arrivare anche alla Juventus. È un'ipotesi, ma mi sembra non l'ho detto solo io, no? Io ci scommetterei, le dico invece che ci scommetterei su Cassano alla Juventus. Guarda, io spero che perda questa scommessa, poi gliela rimborso io a mie, mi autotasso, ma spero che non venga a Torino un giocatore così, per 2 motivi. Uno, è sopravvalutato in un modo pazzesco, ma la cosa peggiore, spero che non sia vero ciò che ho detto stamattina sulla Gazzetta. Cioè? Perché, non so, ci sono scritte delle parole che ho utilizzato nei confronti del suo presidente, che avrà di circa 45 anni più di lui. Sì. Spero che non siano vere. Guardi, io non lo so, perché in questi giorni, insomma, tra indiscrezioni, sussurri, bisbigli, ne ho sentite di tutti i colori, le dico la verità, ne ho sentite di tutti i colori, da problemi coniugali, che sanno oggi detto che vuole stare vicino a sua moglie per ragioni non meglio precisate, tutto è suo pieno diritto difendere la sua privacy. Ho sentito addirittura che alla base di questa esplosione d'ira incontrollata di Cassano ci sarebbe un diniego della società a partecipazione concordata a un programma televisivo in cambio di tanti soldi, e poi alla richiesta allora va a ritirare il premio, Cassano ha risposto come avrebbe risposto. Sono mille le voci che si fanno su questa situazione, e in parte mi interessano anche poco, cioè, mi interessa il senso del discorso, cioè questo atto di Garrone che per questioni di principio decide di rinunciare a parecchi quattrini, perché al di là della rata che la Samp deve ancora versare al Real Madrid e quindi sarebbe risparmiata con la partenza di Cassano, però la rescissione del contratto è tanta roba, perché sarebbe stato eventualmente più semplice cederlo al miglior offerente a gennaio, magari agendo sotto traccia, non trova? A livello economico sicuramente sì, però guardi, io arrivo a dirle che non so quanti grandi club cerchino per davvero Cassano, perché finora se è rimasto alla Sampdoria, penso che Cassano con 15 milioni all'incirca si compra, sì. Oddio, sono sempre tanti soldi, però per un grande club non mi sembra una cifra. Questa è una valutazione che ho fatto anch'io molte volte, però se come si diceva, questo Cassano aveva davvero cambiato pelle, cioè era diventato uomo e non più ragazzino molto bizzoso e a tratti poco intelligente, se questa premessa fosse stata confermata o fosse confermata, allora poteva diventare qualcosa di interessante. Di più non saprei dire. È chiaro che prendere un monello di 26 anni che non sai mai che cosa ti combina non è un affare. Prendere un giocatore con il suo talento, al di là dei giudizi, e qui sono d'accordo, molto iperbolici che spesso sono stati dati su questo giocatore, al di là di tutto questo, prendere un giocatore del suo talento e del suo valore, se fosse finalmente maturato, potrebbe essere un affare. Giulio, provincia di Modena, buonasera. Buonasera Torgenta. Io mi prendo spunto da una dichiarazione che ieri sera ho sentito da Boban, che è relativa alla qualità delle difese che erano schierate in campo, pur raffezzonate a causa delle assenze. Però il Milan potrà probabilmente competere per lo scudetto se diventerà un po' più squadra come la Juve, con i limiti di organico che ha dimostrato di essere. Sì. Però farà fatica a competere a certi livelli giocando con tre punte. Ma certo. e là dietro Antonini, ma che certo. ha fatto colpire Quagliarella a 15 metri dalla porta, quindi bastava spostare, cioè sono errori veramente di sì, lasciando stare il fatto che anche sul secondo gol la smagliatura è stata evidente, l'errore è stato evidente, no? Con Sissoko che è riuscito a prima è stato scavalcato dal pallone Antonini, poi Sissoko ha perso il passo, è caduto, si è rialzato, ha dato la palla Del Piero che ha tirato. Non è una situazione normalissima se ci si trova contro una grande difesa, no? Non credo che quella del Milan attualmente sia una grande difesa. Il Milan regala costantemente la superiorità numerica agli avversari, la superiorità anche fisica, perché nel Milan non c'è solo l'inferiorità numerica, ma c'è anche un centrocampo che anagraficamente e agonisticamente è anziano. Può andarti bene nel campionato italiano quando non affronti grandi squadre, quando affronti squadre attrezzate, vedi Real Madrid, vedi Juventus, vedremo l'Inter, questo gioco non può funzionare. Dunque io torno a ripetere, attualmente il Milan di grande in questo assetto ha soltanto la presunzione, perché così contro le grandi squadre fatalmente le prendi, e poi è un Milan legato chiaramente alle serate che possono arrivare di magia delle sue stelle, perché quello è una variabile che non può essere controllata, però è troppo poco per ambire a grandi traguardi, soprattutto in Europa. Traffico, poi Giuseppe da Caserta. Pubblicità per tutti quelli che lavorano, per tutti quelli che hanno la partita IVA, che banca ha creato Conto Deposito Business. Oh yeah! Il 2,25% sulle somme depositate per un anno e interessi in anticipo. Condizioni valide fino al 31 dicembre 2010. Fogli informativi su chebanca.it. Che banca! La banca per tutti del gruppo Mediobanca. Oh yeah! Strade in diretta. È il maltempo a condizionare la circolazione al nord e su buona parte del centro, e continuerà a piovere almeno fino a domani. Complice la pioggia si sono verificati diversi incidenti. Ci sono code sul tratto milanese della A4 in direzione Brescia per un incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni. È un incidente a condizionare la circolazione sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo sul tratto urbano tra Lunghezza e Ponte di Nona nelle due direzioni. Si tratta di un tamponamento. Sulla A7 la Milano-Genova, le code verso il capoluogo ligure tra l'innesso con la 12, la Genova Rosignano, e quello con la 10, la Genova Ventimiglia, sono per lavori che si sono resi necessari dopo un incidente. E sono tre le auto coinvolte in un incidente che causa code in Toscana sull'Autosole verso Firenze, tra Arezzo e Valdarno. Noi torniamo tra mezz'ora. A tempo di sport. 800 24 00 24 per intervenire a tempo di sport fino alle 19 come ogni domenica. Giuseppe da Caserta, buonasera. Buonasera, salve, volevo dire che io ieri sera la partita della Juventus l'ho vista in TV, sì. E diciamo già nei minuti iniziali, anche se il Milan era rembante, notavo uno spirito di squadra, uno spirito di sacrificio che mi ha portato a pensare vabbè, questa partita non la perdiamo. Sì. E poi le volevo chiedere un'opinione su Felipe Melo, cioè questa metamorfosi soltanto una cosa psicologica una questione tecnica, che ne so, insomma un discorso di ruolo, di fiducia da parte del tecnico, perché l'anno scorso era davvero inguardabile, quest'anno invece sembra molto più trascinatore, oltre che un buon giocatore. Sì, però diciamo che la sua Giuseppe, chi era guardabile nella Juventus dell'anno scorso? Lei dice Felipe Melo era inguardabile, c'erano pochi di guardabili. Sì, sì, è vero, però diciamo lui sbagliava passaggi anche da un metro. Sì. Non so se adesso invece non è cambiato, è cambiato il contesto, l'impressione è cambiato il contesto in cui giocava. Chiaramente è un giocatore piuttosto fragile dal punto di vista emotivo e lo sappiamo, no? L'anno scorso in una squadra che non andava nel pieno della bufera eccetera eccetera, con il peso di una valutazione spropositata sulle spalle, perché così si è presentato Felipe Melo alla Juventus e questo conta anche nell'approccio con i tifosi, con chi gli sta intorno, insomma è affondato insieme a tutta la squadra in questa Juventus molto logica, molto razionale e quasi ideale per le sue caratteristiche. Riesce ad essere stabilmente il giocatore che avevamo visto a Fiorentina e forse qualcosa in più, perché ripeto, mi sembra perfetto, il giocatore perfetto in questa nel cuore del centrocampo di questa Juventus. La Juventus ieri sera era una squadra in missione che aveva perfettamente presenti tanti punti deboli del Milan e li ha sfruttati. Gioco non semplice, però le grandi squadre fanno così. L'ha messo sotto numericamente e fisicamente a centrocampo, ripeto, e ha aspettato con pazienza smagliature difensive che con questa difesa senza Thiago Silva sono fatali, e magari anche con Thiago Silva contro grandi squadre come Real Madrid, l'Inter e forse la Juventus, se dopo la vittoria di ieri sera vogliamo inserirla tra le grandi squadre, non di livello europeo ma sul fronte interno senz'altro. Io saluto e ringrazio Luigi De Canio, allenatore del Lecce. Buonasera, grazie. Buonasera. Mi sembra che Gervasoni non sia piaciuto a nessuno, nemmeno a lei ieri sera, figuriamoci a Totti. No, guardi, io ho rilasciato delle dichiarazioni, ho salutato anche l'arbitro. Sì. Devo dire sinceramente, dal campo la sua prestazione mi è sembrata comunque efficace. Io credo che lui abbia arbitrato con lo stesso metodo di giudizio in tutte le valutazioni, e insomma poi qualche errore ci sta, ho solo lamentato, insomma, ho fatto la considerazione sull'episodio sfortunato del primo gol che abbiamo subito, che poteva essere, a mio avviso, anche interpretando bene la regola, anche ravvisato il fuorigioco, ma intanto lì l'arbitro non c'entra nulla, al limite l'assistente, ma che gli stessi hanno anche fatto bene. Poi sono episodi sfortunati che fanno parte di una gara, che possono magari, qualche volta abbiamo avuto qualche episodio a favore, certo, e ultimamente qualcuno a sfavore, ma si danno e si prendono, insomma. Si danno e si prendono. Gervasoni, a mio avviso, è stato molto bravo, insomma. Senta, la Roma l'ha vista ieri sera, la Lazio non so se penso l'abbia vista oggi in TV. Che derby di Roma si immagina? Beh, intanto tre punti importanti anche per la Roma. Poi il derby di Roma è sempre una partita particolare e non sempre vince il più forte o comunque il quello davanti in classifica. Voi avete una classifica splendida, onestamente, basta leggerla. Siete però una squadra, se me lo permette, ha lavorato in Inghilterra anche, una squadra molto inglese o molto spagnola, che la dà e le prende senza troppi complimenti. Ma guardi, purtroppo scorgendo la rosa, io ho tanti attaccanti e centrocampisti di stampo offensivo, quindi non posso permettermi di andare tanto per il sottile. Allora devo sfruttare le qualità dei giocatori che ho, cercando di valorizzarle al massimo, ma poi come filosofia mi piace giocarmi la partita, mi piace provare a vincere, mi piace divertirmi e mi piace dare qualcosa ai miei calciatore, insomma, quindi una condotta di gara ostruzionistica sparagnina non ha mai fatto parte del mio modo di vedere. Quindi si diverte con questo Lecce? Beh, quando perdo non mi diverto. Non tantissimo. Però anche giocare in questo modo, si creano forse anche i presupposti, almeno finora, per poter giocare per vincere anche le partite magari contro quelle squadre dirette concorrenti, e quindi con la giusta mentalità magari si riesce a fare qualche punto in più che può essere utile per salvarci. Certo, di recente hai affrontato anche la Juventus 4-1 quella partita. Ieri sera io ho visto una Juventus adulta, lei è d'accordo con la mia valutazione? Ma io ero sicuro che la Juventus prima o poi con Del Neri si ritrovasse, e insomma credo che Del Neri avesse solo bisogno di lavorare, di creare una solidità come gli è sempre riuscito, e quindi cosa che gli sta, che sta riuscendo, anche perché i calciatori della Juve sono di assoluto valore, magari non ancora prontissimo a livello internazionale, ma credo che nell'ambito di casa nostra credo che siano comunque sia una squadra che sta diventando sempre più forte. Lasciando stare il fatto che anche con voi Krasić un mezzo carpiato l'ha fatto, ma anche lì, come ho detto, io sono un po' più soddisfatto della prova di ieri, perché la squadra anche contro una grande è stata in partita. Contro la Juve, al di là dei primi due episodi anche lì sfavorevoli, però la Juve anche fisicamente aveva un'altra marcia e un'altra determinazione, quindi al di là degli episodi favorevoli è una Juve che voleva vincere ed era sicura, forte e sì, determinata, diciamo una Juve con lo spirito guerriero di quando aveva forse anche un po' più di campioni. Sì, mister, le chiedo ancora questo, lei ha allenato a Siena anche, sì. negli ultimi anni l'Inter nel calcio e Siena nel basket sono state le padrone assolute dei nostri campionati. Ieri Siena ha perso un fatto inedito, era dal dicembre 2006 che era in testa alla classifica, quindi qualcosa di, non dico rivoluzionario, ma quasi. Ebbene, non so Siena nel basket, ma l'Inter secondo lei è attaccabile quest'anno? Ma è attaccabile perché dopo l'ultima stagione in cui ha vissuto un'annata straordinaria, vincendo praticamente tutto, e poi con i mondiali c'è sempre un momento in cui i calciatori che hanno partecipato a questi straordinari successi sembrano tirare non che si accontentino, ma hanno bisogno di tirare un po' il fiato, magari un po' vengono meno, almeno inizialmente, quelle motivazioni fortissime che magari hanno avuto in passato quando avevano la Champions, come da 50 anni non prendeva. Oggi con Benitez poi stanno avviando un nuovo corso, e hanno qualche infortunio di troppo, hanno dei giovani da valorizzare, anche perché devono fare sempre più attenzione anche al fair play finanziario, certo, come un po' tutti, e quindi credo che qualcosa possa lasciare, e credo che la Juve, soprattutto questa Juve, ma perché no anche la Lazio, per come stanno andando, possono anche durare. Oltretutto la Lazio non ha nemmeno le coppe, quindi certo. Credo che possano probabilmente lottare sicuramente fino in fondo. Per ancora un po' sicuramente la Lazio, secondo me fino in fondo la Juventus, sono d'accordo. Io la ringrazio, mister, buon lavoro. Grazie, buonasera a voi, salve. Buonasera. Grazie a Gigi De Cagno, allenatore del Lecce. Dunque, dobbiamo fermarci per il giornale radio. Io avrei lì due ascoltatori, Graziano De Serna, Vittorio da Pordenone. Parleremo con loro molto volentieri dopo il giornale radio, con loro e con tutti quelli che arriveranno. 800 24 00 24, numero verde, sarà un piacere. A più tardi. A tempo di sport. Dunque torniamo con Graziano De Serna e Vittorio da Frosinone, come anticipato 800 24 00 24 numero verde per parlare con voi, magari mi piacerebbe anche un vostro commento su un argomento, non so se Graziano e Vittorio vorranno parlarne, però mi pare che la vittoria della Juventus di ieri, a margine naturalmente di tutto quanto è il discorso calcistico, mi sembra che la vittoria della Juventus in attesa, la partita forse della Juventus in attesa, abbia fatto perdere, diciamo così, un po' di eleganza, forse, non solo alla stampa di casa, cioè a Tutto Sport, ma anche alla Gazzetta, che oggi titolavano in maniera identica, cioè Bunga Bunga Juve. Bunga Bunga Juve. In questi tempi un po' trash diretti ci sta tutto, no? Va bene, ci sta tutto, però tanto tutti insieme ci domandiamo quando ci sarà fine al peggio, forse mai, come dice il proverbio. Graziano, buonasera. Buonasera, buonasera. Volevo parlare della Lazio invece, andare un po' controcorrente. Volentieri. Ecco, e dico subito che ne parleremo anche tra poco con un ospite laziale, naturalmente. Dica. È un po' sorprendente questa Lazio, diciamo, fatta un po' in saldi da presidente Lotito, così, prima in classifica, 4 punti di vantaggio sull'Inter, che ha dominato in questi ultimi anni. Ma la vera forza della Lazio si misurerà domenica nel derby, anche con l'assenza di Totti. Sì. È lì che è proprio la Lazio dovrà uscire fuori, secondo me. Ma guardi, il derby di Roma è talmente una cosa strana che invece, secondo me, è il contrario. Cioè, la partita di domenica farà pochissimo testo, le dico la verità. Ma vabbè, anche l'assenza di Totti. Comunque, quando i romanisti mancano nella Roma, la Roma va sempre bene. Cioè, sì, anche nel derby dello scorso anno la Lazio vinceva, poi Ranieri fece uscire De Rossi, sì, e Totti, sì, e recuperò la partita e vinse. Cioè, perché la Lazio, se non sbaglio, nelle prime 9 partite non ha incontrato squadroni. Sì, ad eccezione del Milan. Ad eccezione del Milan. Sì. Mentre l'Inter ha incontrato già Juve e Roma. No, certo, però Graziano, la vittoria di oggi a Palermo, ottenuta come è stata ottenuta, cioè con grande sofferenza e con grande sofferenza, con grande capacità di soffrire anche con l'aiuto delle stelle, indicano che la Lazio in questo momento è la squadra del destino. Quanto sia, dove possa arrivare questo destino, non lo so. Io non credo fino in fondo, non ci credo, perché per qualità e profondità non mi pare che la Lazio, anche se non ha le coppe, possa essere attrezzata, diciamo francamente, per vincere lo scudetto. Certo, è una squadra molto solida, molto ben messa in campo da Rea, molto ben disegnata da Rea, che ha rivisto un po' le sue idee tattiche, considerati i giocatori che ha a disposizione. È una squadra che ha una catena di trasmissione centrale formata dai due mediani, Brocchi, che sta giocando benissimo, e Ledesma, che è un signor metronomo di centrocampo, è un signor giocatore, e davanti a questo Hernanes, che è il valore aggiunto. Hernanes e Zárate, che ha perso un po' di pericolosità offensiva, ma che è più funzionale probabilmente alla squadra. Beh, la Lazio è una signora squadra. Dove possa arrivare non lo so, torno a ripetere, secondo me il derby farà pochissimo testo, perché è una di quelle partite che, insomma, le vinci. Se la Lazio vince, bisogna chiamare tutti i pompieri d'Italia per spegnere gli entusiasmi. Se perde, in teoria non succede nulla, perché conserva il primo posto in classifica, però sappiamo bene come una delle difficoltà nel trovare successi a Roma sia proprio questa incapacità di metabolizzare gli esiti del derby, che possono lasciare strascichi anche incomprensibili, se vogliamo. Lo saprà anche Vittorio da Frosinone, no? Sì, penso, ha detto bene, il derby a Roma è vissuto in maniera particolare rispetto a tutte le altre città, direi addirittura europee, insomma. Sì. Comunque io volevo parlare del Milan, se è possibile, grazie. Prego. Per l'opportunità. No, io volevo sottolineare un aspetto che secondo me è importante, no? Cioè, come la stampa giudica anche gli insuccessi o i problemi tattici del Milan, no? A parte i due titoli che, come giustamente diceva lei, penso che siano una perdita di stile e di qualcos'altro. Sì. Comunque, nessuno mette però il dito sulla piaga, secondo me, del Milan. Il centrocampo del Milan ancora veste, cioè si poggia su gente che cammina in mezzo al campo, non corre. Sì. Cioè, mi riferisco a Pirlo, ai Seedorf che si avvicendano. Questi camminano, non corrono più, sono stati grandissimi giocatori, hanno dato un contributo al Milan determinante. Esatto, però oggi, sì. Oggi quello è il controsenso, perché le tre punte si possono sostenere tranquillamente mettendogli dietro un centrocampo consistente come fa il Barcellona. Sì, Barcellona gioca totalmente in un'altra maniera, ha anche degli attaccanti molto diversi da quelli che ha il Milan anche come caratteristiche, però lei ha ragione, l'abbiamo detto anche prima, no? Insomma, di grande il Milan in questo momento ha la presunzione, perché parte regalando sistematicamente, come lei diceva, come dicevo io in precedenza da parecchio tempo a questa parte, parte regalando sistematicamente il centrocampo agli avversari, numericamente perché abbiamo visto anche ieri sera, no? Parti 4 contro 3, l'abbiamo visto ieri sera, l'abbiamo visto a Madrid, lo vediamo soprattutto, questo è evidente con squadre di livello, con squadre attrezzate anche fisicamente. Insomma, parti a centrocampo con un uomo in meno e con degli avversari che fisicamente ti sovrastano. Insomma, l'esito non può che essere quello di Madrid e di ieri sera, no? A parte Gattuso che corre e gli altri stanno fermi. Il problema si è visto benissimo ieri sera, quando gli attaccanti hanno vengono raddoppiati o triplicati, al centro dovrebbe esserci il centrocampista, ma quelli arrivavano col treno del ritardo, questo è il problema del Milan. Sì, le faccio... stia lì Vittorio, le faccio rispondere da Mauro, provincia di Alessandria. Buonasera. Sentivo male l'amico che era già collegato. Stiamo dicendo che il Milan ha problemi di struttura, di centrocampo. Età anagrafica e di chilometraggio, se me lo passa, dei centrocampisti, e questo con grandi avversari e si nota. Vabbè, sicuramente a Manchester credo che 3 dei 4 centrocampisti in campo fossero Gattuso, Pirlo e Seedorf. Esatto. Mi corregga se sbaglio. No, non la correggo perché dice giusto. L'unica cosa che volevo dire è che, vabbè, per me Pirlo è imprescindibile, ma quando sta bene, io credo sia uno dei giocatori che ha giocato più partite attualmente in campo, è quello che ha giocato più partite al mondo, qualcosa del genere, una cosa esagerata, sì. A cominciare dalle Olimpiadi. Andare in avanti. Sì. Ma anche in questo Milan Pirlo è imprescindibile, al di là della grandezza del giocatore che nessuno discute, al di là del fatto che comincia a avere i suoi anni, al di là anche qui, come lei sta dicendo, del chilometraggio molto elevato, in questa squadra si può permettere in questo momento Pirlo? Ma secondo me, una cosa velocissima, se avesse a fianco gente che corre e non solo quelli davanti che magari aiutino, perché non può giocare con Seedorf, che è un grandissimo, è stato un grandissimo, però purtroppo cammina. E io vedo, io continuo a dire che dunque è impossibile, Mauro. Dunque è impossibile, perché i giocatori che cammina sono quelli. Esatto, ma attualmente quello che io penso è che i comprimari siano mediocri. Cioè ci sono dei grandi giocatori, indiscutibili Ibrahimovic, Pato, anche Thiago Silva, anche Nesta se sta bene, ma il problema sono gli altri, cioè gli Abate, gli Antonini, eccetera, eccetera, tutta gente che andrebbe bene in squadre piccole o medie, non è da Milan. E l'ultima cosa che volevo dire era veramente il motivo della mia chiamata, è che secondo me quest'anno vedremo Milan esattamente all'opposto degli anni passati, cioè gli anni passati grandi partite con le grandi, sì, magari grandi vittorie e perdere un sacco di punti con le piccole. Quest'anno secondo me vedremo il contrario. Sì, sono abbastanza d'accordo, è per questo che io ho sempre detto che il Milan può essere effettivamente competitivo sul fronte interno, cioè sul fronte italiano non lo sarà assolutamente, sul fronte europeo, proprio per i motivi che stiamo dicendo, insomma. Quindi questo Milan può rimanere in corsa se riesce a correggere minimamente i suoi difetti, se riesce a trovare un po' di partite magiche delle sue stelle estemporanee, anche partite estemporanee, perché insomma il Milan ormai si aggrappa al talento di quelli che ha davanti, perché non è una squadra in questo momento tatticamente sostenibile, tatticamente logica. Se si verificano queste condizioni, che comunque sono tante, allora il Milan può rimanere competitivo fino alla fine sul fronte interno. Sul fronte europeo non se ne parla neanche, secondo me. 800 24 00 24, traffico, vi aspetto qui. www.ecopolis.fieraroma.it. L'ambiente e la gestione sostenibile delle città si incontrano. Vi presenta Strade in diretta. La 25 Roma Pescara è chiusa all'uscita di Chieti verso Pescara per un incidente, automobilisti in coda a partire da Scafa Alanno. Ci spostiamo sulla 24 Roma L'Aquila Teramo, qui code a tratti per un altro incidente tra Lunghezza e Ponte di Nona verso Roma. E c'è un incidente anche sull'Autosole, si rimane in fila per circa 2 km tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze. Si lavora dopo un incidente sulla 7 Milano-Genova, auto in fila tra l'innesto con la 12 Genova-Livorno e l'innesto con la 10 Genova-Ventimiglia in direzione del capoluogo ligure. Ci fermiamo qui, ma ritorniamo tra mezz'ora. A tempo di sport. 800 24 0024, numero verde, già che ci sono, anche il numero dei messaggi 349 238 6666. Ce ne sono molti, tra cui questo di Silvia: per favore rispondimi. Ma certo Silvia, molto volentieri. Credo che alla fine, scrive la nostra ascoltatrice, l'Inter quando sarà pieno organico vincerà lo scudetto. La Gazzetta sta diventando come tutto sport. Al di là di quest'ultima considerazione, credo anch'io che l'Inter sia la squadra da battere, certamente. Credo però, confermo però il fatto che mi sembra un Inter attaccabile dalla concorrenza, che, ripeto, al di là della grandezza della Lazio del momento, vedo limitata alle due squadre che ieri sera si sono affrontate a San Siro e sulle quali c'è anche un altro messaggio, che è questo: mi domando che partita abbiate visto voi che elogiate la Juve di ieri. Lei semplicemente è girato tutto bene, a cominciare da un inesistente fuorigioco a Pato. E vabbè, lascia stare fuorigioco a Pato, inesistente o non inesistente. Leggendo la partita, secondo me non è così. C'è chi scrive, questo ascoltatore scrive, al Milan anche il pareggio sarebbe andato stretto, ma qui credo, ho l'impressione, parli il tifoso. Sta per parlare anche invece un tifoso illustre della Lazio, direttore del TG5, Clemente Mimun. Buonasera direttore, grazie. Buonasera a voi. Credo che possa essere per i laziali la settimana più bella dai tempi dello scudetto, o mi sbaglio? Sì, manca la ciliegina. Però se va male... Per la verità siamo già contenti, nel senso che quello che è accaduto fin qui era inatteso, stiamo vedendo una squadra molto bella, molto forte, molto compatta, molto corretta, sì. In un clima diverso da quello dell'anno passato, quindi teoricamente comunque dovesse andare, siccome c'è una differenza di 10 punti, dovremmo essere contenti lo stesso, ma se lo dicessi sarei un bugiardo. Quella ciliegina vale come 7-8 punti. Quella ciliegina secondo me vale troppo a Roma, vale troppo quella ciliegina. Vale tanto, no, non vale troppo, vale il giusto. Infatti io tra le cose che pensavo potremmo chiedere alle autorità federali se ci diranno Biava e noi li ammettiamo anche Totti, stabiliamo gli equilibri per la Roma avendo il capitano e per noi avendo la difesa titolare. Perché lei sa benissimo che in questo momento per la Roma Totti è un problema. No, Totti no. È un problema per nessuna squadra. Io ho visto quel poco che sono riuscito a vedere ieri sera della partita della Roma, gioca al volo, fa aperture, quindi non ci sono. Poi il capitano della Roma durante i derby è caricato a 10.000, Totti lo sente tantissimo, quindi a me ha dato fastidio come tanti altri quando, no, con le magliette particolari, eccetera. Detto questo, averceli, no? Quando noi avevamo Nesta avevamo un capitano romano, sicuro. Eravamo contentissimi anche del derby tra i due, quindi sì. Credo che la Roma ci rimetterebbe niente ad avere Totti, direttore, tanto. Però avrà pensato che se va male siete ancora primi. No, se va male, se va bene ci vogliono i pompieri, tutti quelli che ci sono in Italia. No, questo è un problema che riguarda quelli che pensano che la Lazio stia vincendo perché è fortunato. La Lazio sta vincendo giocando bene, con una compattezza e un clima assolutamente nuovi che non c'erano neanche negli anni migliori, perché io durante gli anni di Eriksson, come dire, ero molto vicino alla squadra, sì. Per cui c'erano molti galli a cantare, come si dice, no? Questa è una squadra molto più low profile, ha delle eccellenti individualità, e poi credo che il miracolo vero l'abbia compiuto l'allenatore, che da buon goriziano è pragmatico, serio sul campo, studia bene le avversarie, quindi non so quanto durerà il momento, però intanto diciamo che già fin qui è stato molto bello vincere 7 partite su 9, fare 22 punti in 8 partite, perché la prima avevamo giocato meglio di altre e abbiamo perso, sì. È già piacevole, però ripeto, a Roma conta molto di più la partita di domenica che delle ultime 4 che abbiamo vinto. Lo so perfettamente. Se permette la faccio parlare con un ascoltatore che vuole parlare di Lazio. Loris, provincia di Ancona, buonasera. Sì, pronto. Buonasera, dica. Sì, no, io volevo parlare di Lazio, ma è stato già detto tutto, da come ho potuto ascoltare. Il direttore, certo. Sì. Cosa voleva dire? Cosa voleva dire? No, volevo dire che io condividevo l'opinione che la Lazio in pratica è un'ottima squadra, una buona squadra che non ha eccellenti, non ha grandissimi campioni come l'Inter e il Milan, però è, diciamo, ha dei grandi lavoratori che piano piano stanno fruttando, sì. stanno dando i frutti sperati. Sì. Lotito, come si sa, non è uno che ama spendere cifre esorbitanti. Con quel gruzzoletto che ha, riuscito a mettere insieme una squadra da 8 e mezzo. Sì, sì, ma certo che direttore, quella catena di trasmissione centrale, Brocchi, Ledesma a centrocampo, Hernanes e Zárate davanti, non sono semplici operai specializzati. No, ma soprattutto perché l'ascoltatore d'Ancona forse ignora che Zárate e Hernanes insieme costa pagati 33 milioni, quindi sì, sì. Altro che campagna sparanina. I quattrini il presidente li mette su investimenti che vanno anche per il futuro. La differenza tra la Lazio di oggi e alcune squadre di Milan è che noi siamo proiettati su un programma di qualche anno, mentre il Milan di anno in anno cambia, inserisce campioni straordinari, però che hanno anche una scadenza tipo yogurt, capito? Quindi c'è una differenza sostanziale. Certo che un campionato così bizzarro potrebbe autorizzare pensieri strani. O no? Se ne parla, come dicono quelli che se ne intendono dopo il giro di Boa, la squadra è in grado di fare molto meglio di quel che si immaginava, appunto. Dopo attenzione, perché in Italia succedono cose strane quando chi non è previsto macina gioco e punti, improvvisamente le arbitra si girano contro. Insomma, ci sono tante cose che a Roma per vincere uno scudetto bisogna giocare bene per 3 anni, no? Perché questo è il primo anno, diciamo, che augurerei che di qui al 2012 lo portassimo a casa, no? Certo. Non ho nessuna fiducia sul fatto che si possa vincere semplicemente perché si è bravi. Direttore, le chiedo un'ultima cosa che è un giudizio. Prima dicevo, ho notato questo strano, insomma, strano, magari neanche tanto, questa perdita di eleganza, credo, da parte dei titolisti di oggi. Tutto Sport e Gazzetta, 2 titoli identici, che a me sono piaciuti poco. Bunga Bunga Juve. Questi tempi così trash, si potrebbe dire, vale tutto. Possiamo accettarlo con riserva? Io direi che se ciascuno guardasse a casa sua, i titoli li farebbe con maggiore attenzione. La differenza tra alcuni personaggi e quelli che fanno i titoli è che i personaggi sono sotto gli occhi di tutti. Gli individui che non hanno cariche, eccetera, fanno la loro vita senza che nessuno si ispira o la serratura. Grazie, direttore. Buon lavoro. A voi, arrivederci. A presto. Clemente Mimon, direttore del TG5. Alessandro da Modena, ascoltatore. Buonasera. Sì, buonasera. Salve a lei e a tutti gli ascoltatori. Dica. Io telefonavo perché volevo parlare ancora un po' del Milan di ieri sera. Intanto volevo fare una precisazione che secondo me Nesta ieri ha giocato una signora partita come non la vedevo giocare da tanti tempi, e grazie a lui i signori Abate e Antonini hanno fatto una più bella figura, nonostante l'abbiamo fatta bella, ma ha tenuto su la difesa del Milan e ha fatto sì che la Juve, insomma, è stata meno pericolosa di quanto in realtà poteva essere. Sì, l'ho visto su dei grandi. Nesta su 2 anni che mette le pezze finché sta in piedi, insomma. Io credo che Nesta, l'anno scorso dicevo, Nesta è il giocatore più importante del Milan, si ricorda, con il Milan di Leonardo che si lasciava sbattere contro gli attacchi avversari, e c'erano Nesta e Thiago Silva che come pazzi andavano a chiudere tutte le falle che c'erano. Nesta ieri sera aveva giocato una buona partita di livello, però mi sembra sempre il soldato dell'emergenza, insomma. E quando non c'è Thiago Silva, che è l'assistente all'emergenza, insomma, Abate Antonini. Abate a me piace molto nella capacità, nella metà campo avversaria, nella metà campo offensiva, per la capacità, ed è l'unico nel Milan che abbia quel tipo di capacità, di saltare l'uomo secco e di mettere la palla in mezzo forte e tesa. In Abate, quindi nato così. In fase difensiva, dubbi. Dica. Un'altra considerazione che volevo fare, che insomma ho sentito in trasmissione stasera, Milan tatticamente non sostenibile. Insomma, credo che ci sia una precisa responsabilità anche del nostro allenatore. Ieri ho trovato che i cambi siano stati un po' tardivi, ecco. I cambi di Cedro, Fenzao, un patto che non andava, Inzaghi che dà profondità più per curiosità in area di rigore, secondo me potevano essere fatti prima, non proprio negli ultimi 10 minuti. Questo è vero, ma sono comunque cambi dettati dall'emergenza, Alessandro, perché è evidente che insomma, nel finale ammassi il potenziale, come ha sempre fatto Mourinho, ammassi gli attaccanti là davanti, e se ti va bene trovi il gol. Detto questo, parliamoci chiaro, se Allegri per imposizione aziendale deve giocare con tre attaccanti, quali sceglieteli voi o li sceglierà lui, quali, con Ronaldinho che preferibilmente deve stare in campo, diventa comunque per se stesso una squadra tatticamente, secondo me, insostenibile alla luce dei centrocampisti che Allegri ha a disposizione. Quindi per forza fisica, per età, per usura, per quello che volete, diventa qualcosa di insostenibile tatticamente. Poi è chiaro che quelli là davanti il colpo lo possono trovare in qualunque momento, se ne trovano un paio vinci le partite, altrimenti soffri come un dannato. Il Milan contro le grandi squadre, secondo me, e contro le squadre atleticamente molto pronte, è destinato a soffrire in maniera pazzesca da qui fino alla fine. Piero da Trani. Sì, buonasera, salve dottor Garanzini. Carlo Genta, piacere. Sì. Io volevo così fare un'osservazione sul Milan, sì. Se era possibile, sulla Roma. A proposito della presunzione di cui lei ha parlato e sulla quale secondo me ha ragione, io credo che il Milan porti dietro questa presunzione sin dai primi tempi di Ancelotti, presunzione mascherata secondo me con la prima vittoria in Champions contro la Juve, torneo in cui il Milan è arrivato in finale con 5 pareggi nelle ultime partite, e l'ultima partita che aveva vinto in casa, se non ricordo male, col PSV Eindhoven, su un rimpallo con gol di Shevchenko al 92esimo, sì. Poi ha fatto, diciamo, una discreta partita contro la Juventus e ha vinto ai rigori. Non voglio fare dietrologia, ma un po' la sta facendo, rivangando singoli episodi. Quello, secondo me, Piero, quello era un grande Milan, quella non era presunzione, quella era una grande trovata di Ancelotti con giocatori molto più giovani e molto motivati. Era una squadra in cui piena di qualità a centrocampo come nessuno aveva in Europa e nel mondo, ed erano giocatori che hanno messo la loro qualità al servizio di quella squadra, perché se si ricorda Pirlo inventato davanti alla difesa, Seedorf che ovviamente è sempre stato un giocatore straordinario, molto sottovalutato secondo me soprattutto dai milanisti. Insomma, erano giocatori disposti a rinunciare a un po' delle loro possibilità di essere superstar al servizio della squadra. Quindi trovo che quella sia stata invece una grandissima squadra. Dottor Garanzini, mi permetta. Il Milan di Ancelotti ha vinto un solo scudetto nel 2004. Dopodiché ha fatto solo magre figure, arrivando, credo, 3-4 volte a 15, 12, 20 punti dall'Inter, dalla stessa Juventus anno in cui ha vinto lo scudetto e è arrivato a 15 punti. Una grande squadra è stata l'Inter dello scorso anno. Sì. La Juventus di Lippi, che ha perso lo scudetto contro il Milan, perché vincendo lo scudetto è arrivato comunque in finale, e il Milan di Sacchi, che vinceva dappertutto. Il Milan degli ultimi anni, pur avendo vinto 2 scudetti e una Champions, secondo me non è stata una grande squadra. Beh, Piero, ne ha vinte un paio di Champions, ne ha vinte 2,5, insomma, quella, consideriamo che quella che alla fine del primo tempo era già nella bacheca. Mi sembra un po' azzardato dire che quel Milan che ha vinto 2 Coppe dei Campioni sia stata una squadra inferiore a queste, non lo so, poi ognuno ha le sue valutazioni. Certamente era una squadra di spiccata vocazione europea, di spiccato DNA europeo, una squadra che certamente a ottobre, novembre, nonostante l'organico che aveva a disposizione, era fuori dai giochi scudetti in maniera incomprensibile, anche un po' sciocca, proprio per questa sua ossessione europea. Però dire che quella squadra sia stata qualcosa di trascurabile, insomma, io francamente non me la sento. 800240024, numero verde, ci fermiamo un attimo, poi di nuovo qui. 3, 2, 1. Conto alla rovescia, lancia Radio 24 nello spazio. Tutte le domeniche alle 16:30. Voci autorevoli racconteranno i misteri che orbitano nella nostra galassia. conto alla rovescia. In collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana. Buongiorno, sono Flavia di Vodafone Partita IVA. Flavia, sono Marco, faccio l'architetto. Vorrei risparmiare sulle spese telefoniche del mio studio. Se passa a Vodafone Partita IVA, può avere l'ADSL senza limiti e le chiamate verso i suoi collaboratori, tutto incluso a soli 20 euro al mese. Che risparmio! Quindi passa? Certo che passo! Se hai un'attività, passa anche tu a Vodafone Partita IVA. Scegli ADSL e mobile. Hai l'ADSL senza limiti e tutte le chiamate verso i tuoi collaboratori incluse, a partire da 20 euro al mese. Info su Vodafone.it all'800 127 777. Vodafone. Foppa Pedretti ti stupisce sempre, ad esempio con Copernico, tavolo pieghevole in faggio che chiuso diventa una pratica console e dentro contiene 6 sedie pieghevoli modello Moon. Abracadabra? No, Foppa Pedretti. Foppa Pedretti, l'albero delle idee. Grazie alla ricerca Eni scende in pista la benzina del domani. 26 team e 17 gran premi per metterla alla prova e darvi il massimo delle prestazioni. Eni, fornitore esclusivo di carburante per la Moto2. Ho scelto un partner che garantisca affidabilità, sicurezza e tecnologia di valore. Ho scelto Dell. Ho scelto un partner capace di supportare la crescita e la qualità del mio business. Ho scelto Dell. Ho scelto un partner in grado di offrire consulenza e soluzioni su misura per la mia impresa. Ho scelto Dell. Fai la scelta giusta. Dell e Intel insieme per la tua azienda. Il futuro, pensato per vincere le sfide del presente. Scopri chi ha scelto. Visita il sito dell.it/ho scelto. Un amico me l'ha chiesto per il trasloco, un altro me l'ha chiesto per caricarci la legna, mio zio me l'ha chiesto per portare i quadri alla mostra. Ma perché non ve lo comprate un Transit? Transit Vanti DCI a 13.250 euro. A tempo di sport. Dunque, prima di riprendere con disquisizioni calcistiche, io farei una parentesi. È venuto a trovarmi qui in studio oggi Giacomo Bagnasco. Ciao Giacomo. Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti. Che ha appena scritto, tra l'altro, per l'online del Sole 24 Ore qualcosa su Cassano. Ah sì, quest'oggi. Da genuano Giacomo Bagnasco ha scritto su Cassano. Ma sai che è il secondo articolo che compare sull'online da parte di un giornalista del Sole che è genuano e che casualmente si trova a trattare di Cassano. Ne ha scritto Vittorio Carlini oggi, ieri, oggi è toccato a me. È la croce che vi tocca portare. Sì, ma ti dico la verità, però è una vicenda un po' strana, un po' curiosa, e tutto sommato probabilmente Cassano era o forse sarà ancora uno di quegli avversari che poi danno un po' pepe a tutte le discussioni tra tifosi, anche perché c'è chi dice che almeno in trasferta poi la Sampdoria senza Cassano rende di più. Chissà se questo è vero. Beh, oggi ha preso 3 punti, 92esimo, però ha preso 3 punti. Poi è chiaro che se dici la parola Cassano ti mettono il telefono in faccia, o quasi, insomma. La prima abbiamo provato a chiedere qualcosa a Gasperin, ma non c'è verso. A proposito di Cassano, c'è Giorgio De Luca che ha pescato un file audio, chissà se l'hai citato oggi nel pezzo, che risentito oggi, alla luce di tutta questa vicenda dai contorni un po' beceri e comunque ancora vagamente misteriosi, ebbene, risentire queste parole di Cassano, che tra l'altro la nazionale la rischia, perché se verranno presi appunto i provvedimenti che la Sampdoria ha chiesto per il regolamento interno del Club Italia, non verrà convocato da Prandelli per un regolamento da lui stesso varato. Sentiamo cosa aveva detto in nazionale. Gli errori che ho fatto mi hanno fatto capire che, continuando su quella strada là, sbagliavo del tutto, e poi ho trovato la mia serenità nella mia vita privata, in tutto, che mi ha fatto cambiare definitivamente la mia vita. Sono sempre sereno, rido, scherzo, però fino a un certo punto, non esagero. È normale che se qualche volta esagererò non mi buttate la croce addosso che dice è ritornata a fare, che sono 4 anni che non faccio una cagata. Hai buttato la croce addosso tu? No, la croce addosso no, devo dire. Se l'hai tirata da solo in testa. Eh sì, anche se effettivamente, diciamo la verità, per quanto riguarda i comportamenti in campo, era un giocatore cambiato, un giocatore che sopportava parecchi falli, un giocatore che teneva la lingua a posto. Qualcosa però è scattato. A proposito di questo regolamento interno voluto da Prandelli, Carlo, c'è da dire che è una cosa che somiglia molto, e così veniamo al nostro argomento, alle regole che sono fissate nel rugby. Nel rugby succede che se un giocatore viene squalificato per una partita di campionato è squalificato a tutti gli effetti, cioè il suo comportamento scorretto nella partita di campionato fa sì che non potrà più giocare neanche in Coppa, non potrà giocare neanche in nazionale per il periodo di durata della squalifica. Che succede nel rugby? E nel rugby succede che nella Celtic League le squadre italiane continuano ad andare su due strade diverse. C'è il Benetton che ha vinto anche stavolta, è la quarta vittoria in sette partite, ha avuto la fortuna finora di giocare cinque partite in casa, però quattro le ha vinte. Ha vinto contro gli irlandesi del Connacht 24-17, due mete di Barton e Nitoglia. Benetton che si trova al sesto posto su 12, questo è perfettamente onorevole questo comportamento della Benetton, forse oltre le aspettative. Sarà a metà classifica nella Celtic League al primo anno di partecipazione con club di livello assoluto continentale, senz'altro sta facendo benissimo per sì intorno. Io direi di sì, anche perché è una squadra che probabilmente è conscia ancora di avere dei limiti, quindi vince soffrendo, ma questo è ancora più importante, vuol dire che c'è la tenuta anche mentale per 80 minuti e quindi le cose per il Benetton per adesso vanno bene, questo si spera abbia ripercussioni anche sulla nazionale. Invece continuano ad andare male gli Aironi, che hanno perso venerdì a Viadana 20-3 dal Cardiff Blues. Aironi che in casa, l'ho già detto una volta ma purtroppo bisogna ridirlo perché la cosa va avanti, in casa tra Heineken Cup e Celtic League non hanno segnato ancora nemmeno una meta. Per quanto riguarda l'Italia, si avvicinano questi tre test match, uno è con l'Australia e dell'Australia dobbiamo dire che ieri ha battuto la Nuova Zelanda, non le riusciva da tempo, ma soprattutto la Nuova Zelanda aveva inanellato 15 vittorie consecutive, ha perso 26-24 a Hong Kong in una partita stranissima, perché l'Australia ha fatto 12 punti e è andato in vantaggio 12-0. La Nuova Zelanda ne ha fatti 14, ha fatto il sorpasso 14-12, dopodiché ha fatto altri 14 punti l'Australia, è finita 14-12, insomma, in sostanza la partita poi è finita. Si sono rincorsi a break. Esatto. No, c'è stato un break, la ricostruiamo così, un break di 12-0 per l'Australia, un break di 24-0 per la Nuova Zelanda e un break di 14-0 ancora per l'Australia. Quindi tre pezzi di partita e l'ha vinta l'Australia. Spettacolo che... sicuro, l'Australia la dovremo incontrare adesso e la incontreremo poi anche nella prima partita dei Mondiali 2011 e non sarà facile, d'altronde, ci ha sempre battuto. Diciamo che saranno un paio di sconfitte, giusto per non farsi illusioni. Giacomo, se non ti dispiace, io ho ascoltatore in linea e prima di chiederti un altro paio di cose sulla nazionale, parlo con Pino da Roma, Giancarlo da Roma. Buonasera Pino. Ah, buonasera. Dica. No, volevo dire brevemente una cosa sul Milan. Io non capisco come sono due anni, negli ultimi due anni, il Milan ha voluto cambiare i terzini per presunta costruzione per età eccetera e tutti quanti tipo Giuseppe cambiano. Sono due anni, cioè, ma Abate e Antonini non possono giocare neanche in una mediocre squadra di Serie B. Abate un po' l'hanno capito, ma Antonini è scandaloso e nessuno lo mette. Io probabilmente sono stato un buon giocatore, ma è pazzesco, tecnica, cioè veniamo da Maldini, chiaro che Maldini non è che lo trovi dietro l'angolo e neanche lo pretendi, giustamente. Che le ha fatto povero Antonini? Ma che è bravissimo ragazzo, ma è scarso, ma nessuno lo dice. No, ma è vero, ogni gol del Milan, allora, in difesa non la via mai. La via mai. Non la prende mai. Mai. Cioè, io non lo so, ma nessuno, cioè sembra che, cioè, uno, se uno fa una critica tecnica, nel senso, nel mondo dell'informazione, non è mica una presa di posizione, diciamo così, personale, cioè, sì. È che tecnicamente, voglio dire, uno può essere un buon giocatore, ma Antonini purtroppo, c'è Nesta ieri, Nesta è disperato quando non c'è Thiago Silva, perché in due devono mettere le doppie per quattro. L'anno scorso Zambrotta, che paradossalmente Zambrotta è stato chiamato nazionale, non ha mai giocato ieri, perché Zambrotta ha 50 anni, tra virgolette, ma il suo non scenderà tanto, ma da lì non passi, o comunque passi una volta ogni 10. Antonini passi 10 su 10, dall'altra parte uguale, perché se ci metti Bonera o Abate è uguale, ma io dico, ma che compriamo a fare? Ibrahimovic, Robinho, cioè puoi comprare chiunque, pure Messi, ma se tu al lato non ci metti, né Saporaccio non sapeva che fa, che poi va fuori palla pure lui, perché chiaramente non è, cioè non sa chi marcare, deve marcare tre, certe volte pure, anzi deve marcare gli attaccanti più i compagni suoi, cioè scandalo, io non lo so. Si mette lì e gli sparano addosso, insomma. Nesta e Thiago Silva si mettono lì e si immolano alla causa. No, ma lei è molto divertente questa telefonata, non per Antonini naturalmente, se ci sta ascoltando, insomma, certamente non è un fuoriclasse Antonini, certamente non è un fuoriclasse, così così tanto tanto tanto scarso magari non è, certamente non è un giocatore di livello mondiale, insomma. E infatti si vede che quando manca Onesta o Thiago Silva, o peggio ancora tutte e due, perché lei ha parlato, l'ascoltatore ha parlato di Antonini, io ci metterei anche un giocatore che Giacomo Bagnasco conosce bene perché giocava nel suo Genoa l'anno scorso, Papastathopoulos, che sarà anche un bravo ragazzo, magari anche un bel ragazzo per le tifose milaniste, ma non è uno stopper di livello mondiale, questo è certo, e ieri sera un'altra mezza prova l'abbiamo avuta. Giancarlo, Roma, buonasera. Buonasera, buonasera dottore. Ce l'ha anche lei con Antonini in maniera così accurata? No. Anzi, proprio alla vigilia del derby, se mi permette una piccola chiusa, io sono tifoso romanista, sì. Ma una piccola chiusa, complimenti alla Lazio, sta giocando veramente un bel calcio, divertentissimo. La fortuna c'è, ma la fortuna uno bisogna che se la crea, e lì davanti alla porta bisogna starci. E lì poi, poi, mio caro, poi ne parliamo domenica prossima, io l'aspetto. No, che c'entra? No, vabbè, che c'entra? Però quando io l'aspetto qui e dico a queste frequenze, questo numero verde mi deve richiamare domenica prossima, Va benissimo, perché guardi, voglio sentirla a caldo alle 5:05, l'aspetto. Va bene, comunque guardi, già martedì penso che non andrò al lavoro perché i miei amici romanisti mi cacceranno dal posto di lavoro dopo questi complimenti. Però è vero, è anche un, mi permetta, poi passo alla Roma, complimenti allo Tito che da anni sta facendo comunque un'opera di risanamento della società. E non sono d'accordo con l'altro ascoltatore che parlava di campagna sparagnina, non scordiamoci che se non c'era lo titolo la Lazio non c'era. Chiusa Lazio, parliamo della Roma, ahimè, croce e delizia quest'anno. La domanda era, vorrei sapere cosa ne pensa lei, se non è invece finito un ciclo invece della Roma con tanti giocatori, lasciamo perdere Totti che è sui generis, ma tanti giocatori che sono anche molto usurati da anni di calcio anche perché Giancarlo a rincorrere sempre ci si stanca, no? La Roma è una squadra che ha vissuto molte stagioni di rincorsa con Spalletti e poi con Ranieri l'anno scorso, rincorse che non sono mai andate a buon fine. No, tra l'altro voglio dire anche un gioco dispendioso sicuramente, perché la Roma quando deve ripartire parla al piede, gioca tutto campo, almeno il gioco di Spalletti era quello, era anche un gioco molto usurante, sì, spettacolare, sì, quanto si vuole, ma sicuramente usurante. E quindi magari i nuovi proprietari, speriamo che arriveranno presto, perché anche questa situazione così, insomma, non ben definita, arrivano o non arrivano, ha voglia dire il nostro buon Ranieri, il nostro testaccino non influenza lo spogliatoio. Io sono convinto di sì, visto che anche devono prendere stipendi arretrati di 3-4 mesi i giocatori, se non sbaglio, no? Sì. Notizie lette. Però devo dire, qualche segnale si vede, però ecco, una campagna magari cominciare già da gennaio a investire su qualche giovane. Diciamo che è qualche anno che anche la giovanile della Roma, cioè la prima squadra non sì, in maniera continua. Però si contraddice, perché investire su qualche giovane, adesso vediamo chi dovrà investire, perché prima a monte c'è da risolvere un'altra situazione, anche su Ranieri, guardate, il discorso è magari l'avrebbero anche già cambiato, però comunque sarebbe una soluzione estemporanea di emergenza, non sarebbe il nuovo allenatore della Roma, ma semplicemente uno che prende la squadra perché questo non va più bene e la porta fino a dove non si sa, cioè fino a quando arriva una proprietà nuova, quindi sarebbe una situazione abbastanza insensata. Sono d'accordo sul fatto che fino a quando non si risolve questa storia della proprietà è difficile ripartire con qualunque altra idea. Grazie Giancarlo, l'aspetto come detto domenica prossima. Io invece mando il traffico, poi torno. Pubblicità. Per tutti quelli che lavorano, per tutti quelli che hanno la partita IVA, che banca ha creato conto deposito business. Oh yeah, il 2,25% sulle somme depositate per un anno e interessi in anticipo. Condizioni valide fino al 31 dicembre 2010. Fogli informativi su chebanca.it. Che banca, la banca per tutti del gruppo Mediobanca. Oh yeah. Strade in diretta. la 25 Roma Pescara è chiusa all'uscita di Chieti verso Pescara per un incidente, automobilisti in coda a partire da Scafa Alanno. Incidente risolto sull'autosole, ma ancora code da smaltire tra Arezzo e Valdarno verso Firenze. Ci spostiamo sulla 24, Roma L'Aquila Teramo, rallentamenti per un tamponamento tra Lunghezza e Ponte di Nona verso Roma, e si lavora dopo un incidente sulla 7 Milano-Genova, auto in fila tra la 12 e il bivio per la 10 in direzione del capoluogo ligure. Un gentile ascoltatore poi ci segnala lunghe code sul tratto urbano della 4 tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Brescia. Sul tratto si avvertono ancora le conseguenze di un incidente. Ed è molto trafficata la 33 Asti Cuneo, code tra Isola d'Asti e la statale 231 in direzione di Asti. Le condizioni del tempo sono incerte, piogge sparse al centro-nord e a tratti intense, vento forte lungo le nostre coste. Prestate attenzione in particolare lungo la 3 Salerno-Reggio Calabria, dove tra Scilla e Bagnara Calabra è sconsigliato il transito a telonati, furgonati e caravan. Vento sostenuto anche lungo la 14 Adriatica tra Bari e Taranto. Ricordiamo infine il nostro numero verde per le vostre segnalazioni, 800 08 36 22. Ed è tutto, ci risentiamo più tardi. A tempo di sport. Sergio da Milano, buonasera. Buonasera. Senta, volevo dirle che stranamente mi trovo in disaccordo con lei su una cosa. Prima ho sentito la telefonata di un ascoltatore, non so nemmeno tifoso di che squadra, che diceva che il Milan negli ultimi 5, 6, 7 anni non è una grande squadra, e lei ribatteva, e lei ha detto incomprensibilmente a novembre il Milan era fuori dai giochi scudetti. Sì. Io non lo trovo per niente incomprensibile, trovo che questo sia la dimostrazione che il Milan sa da 5 o 6 anni di non essere una grande squadra, perché le grandi squadre cercano di vincere tutto. Sì. E beh, Sergio, cercano di vincere tutto, ma raramente ci riescono, tanto per cominciare. Però non si può dire che il primo Milan di Ancelotti non fosse una grande squadra, non si può dire. Voglio dire, trovo che sia un po' comodo mollare il campionato a novembre per concentrarsi su un obiettivo solo, non è da grande squadra secondo me. Può essere una disquisizione quasi filosofica, Sergio, ti concentri su un obiettivo solo, che però è il più difficile in assoluto da raggiungere, perché un conto è fare una maratona come il campionato, no? Che poi al limite programmare, un conto è giocarsi tutto in una Champions League in cui o dentro o fuori, fine primo tempo 3-0, alla fine perdi la partita e allora quell'anno hai perso tutto. Però anche sul campo il primo Milan di Ancelotti secondo me era una grande squadra, il Milan che vince a Manchester, il Milan che possiamo stare a fare un lungo elenco di episodi, grandi partite giocate da quel Milan, che chiaramente era una squadra sui generis, era una squadra con vocazione europea, era una squadra che aveva in testa solo quell'obiettivo. L'abbiamo criticato mille volte proprio per quello che sta dicendo lei, cioè, ma non può una grande squadra a ottobre fare 0-0 in casa con la Regina e essere a 9 punti dalla prima in classifica. Su questo siamo d'accordo, però è un permettetemi, un modo di vivere un po' diverso che il Milan si autoimponeva. Detto questo, secondo me quel Milan ha scritto pagine meravigliose per il nostro calcio, soltanto questo intendevo dire. Poi le grandi squadre, ok, fanno anche il grande slam come ha fatto l'anno scorso l'Inter, che era certamente una grande squadra. Ha tanto sognato la Champions League, l'Inter al contrario, fortissima sul fronte interno, più debole sul fronte internazionale. L'anno scorso ha fatto quello che ha fatto, certamente è stata una grande squadra, come grandissima squadra è stato quel Milan di Ancelotti. Che dici, Giacomo? Sì, io penso di sì, penso che il Milan però adesso più che mai soffra di uno squilibrio evidente tra i vari reparti, forse quello che dice, al di là dei singoli, quello che diceva l'ascoltatore prima, di una difesa dove anche i giocatori migliori sono a grande rischio di brutta figura, dice già tutto della situazione di questo Milan. Ma Cristiano Ronaldo e Messi in Serie A avrebbero la stessa media gol che hanno in Spagna? Ne dubito. Intanto Mourinho e Guardiola gongolano e noi rosichiamo, scrive un ascoltatore. Filippo Maria Ricci da Madrid, ciao Filippo. Buon pomeriggio. Rosichiamo. Sì, si rosica per altre cose, secondo me. Lo stato generale del campionato più che altro, o del calcio italiano, no? Non il fatto di non avere Messi e Ronaldo. Sì, Filippo, se Ronaldo è questo, Cristiano Ronaldo è questo, se Real Madrid è questo e se il Milan è quello di ieri sera, auguri ai rossoneri. Non c'è stata storia qua al Bernabeu. Citiamo Galliani, no? Pensava un 5-0, poteva finire 5-0. Le partite sono ognuna sono diverse. Io penso che il Milan farà qualcosa di più, mi aspetto una reazione, però resta il fatto che questo Real Madrid è molto solido. Ieri sera è stato messo in difficoltà da una squadra piccolissima che non ha niente a che vedere col Milan, sicuramente inferiore, però ne è uscito poi bene, con un pizzico di fortuna e con la classe dei singoli su tutti, Cristiano Ronaldo. Messo in difficoltà come? Come ha fatto l'Hercules a mettere in difficoltà? Come? Esteban Vigo, chiamato El Boqueron, la sardina praticamente. E l'ha messo in difficoltà con una grande forza, intelligenza, coesione e grande corsa, infatti poi hanno pagato perché dopo un'ora si sono spenti, e poi con quella grande professionista che è Trezeguet, che gli è arrivato un pallone e l'ha messo dentro subito. Però ci vuole uno spirito di corpo, ci vuole corsa, ci vuole attenzione su questi grandi attaccanti. Sì. Non lo so se il Milan ha tutto questo. Non credo proprio, almeno il Milan di ieri sera non ce l'aveva, se non se lo inventa con un bigino, se non lo studia con un bigino entro tre giorni la vedo dura. Cristiano Ronaldo rinato? Beh, Marinato, Rinato, lo guardi in faccia, morto, cioè, no, però non era mai morto, però lo guardava in faccia e qualcosa non andava. Beh, era ansioso, era molto nervoso, voleva segnare. E io lo capisco, perché se pensi che uno che nel mese di ottobre ha fatto 13 gol, diciamo senza segnare, si sentiva un pesce fuor d'acqua, ovviamente è diventato nervoso. Però io ho detto non è mai morto, perché bisogna calcolare che in 48 partite con Real Madrid ha fatto 45 gol. Sono numeri, questo sarà il tema, no, di quello che sto per scrivere domani. Tra Messi e Ronaldo hanno dei numeri che sono allucinanti. Quali? Così lo leggiamo prima di di leggerlo domani sulla Gazzetta. Già questo di Ronaldo mi sembra impressionante. Sì. 13 quindi, nelle ultime 7, giusto? Sì, solo nel mese di ottobre, però in generale a livello stagionale hanno già 15 gol. Messi ha fatto tre doppiette nelle ultime 3 partite. Ronaldo mi sembra siamo a 8 gol nelle ultime 4. Insomma, non so neanche da dove cominciare, sono è uno stato di forma celestiale, ecco. È chiaro che è un discorso da bar dopo il terzo aperitivo, però in Italia secondo te potrebbero fare le stesse cose questi due giocatori? Potrebbero avere questi numeri? Sì, io penso di sì. Magari qualche numero in meno, qualcosa di meno, però in generale la sostanza è la stessa. Questi sono due giocatori che trascinano da soli le loro squadre, d'accordo, qui ci possono essere più spazi e tutto, però non è più così vero. Il Real Madrid quest'anno è stato fermato 3 volte sullo 0-0, su 7 trasferte, per cui non è che qui è la vendemmia, capito? È appunto la sagra del vino. Sì. Allora sì, viene facile segnare tanti gol, no, non è così. Io penso che potrebbero fare lo stesso anche in Italia. Grazie Filippo. Grazie a voi. Alla prossima, grazie a Filippo Maria Ricci. Io chiudo invece con Giacomo Bagnasco in tema nazionale. Dunque abbiamo detto, ci aspetta l'Australia. Leggevo prima un'agenzia secondo cui Paris sarà recuperato nonostante i problemi in una decina di giorni. Questo è un bene, per fortuna. Ma il domandone è... vedremo qualcosa di nuovo alla luce di quanto sta facendo soprattutto Benetton in Celtic League, dell'esperienza che i nostri club stanno facendo nella Celtic League, che poi è l'obiettivo finale, o ancora troppo presto? Ma guarda, io spero di sì, perché soprattutto il Benetton ha la fortuna, diciamo meritata, la forza se li ha scelti, di avere dei giocatori azzurri giovani, diversi giocatori azzurri giovani che è andato a prendersi già 2 anni fa dal Calvisano, quando l'esperienza Calvisano ad alto livello è finita, e quindi questi giocatori dovrebbero essere quelli che, come ha detto anche Nick Mallett nella conferenza di presentazione dei test match, dovrebbero essere quelli che beneficiano maggiormente dalla partecipazione alla Celtic League, che vuol dire giocare molti minuti effettivi in più a ritmi più alti contro avversari più forti, certo, che non ti perdonano nulla. Sotto questo punto di vista sì, sotto il punto di vista dell'estetico del gioco non è detto, insomma, probabilmente è un momento in cui bisogna badare molto al sodo e bisogna ricordarsi che comunque l'Italia continua ad avere dei problemi, e faccio un esempio, un ruolo fondamentale che è quello di mediano d'apertura. Ah, che strano. Va avanti così, lo stesso Mallet ha detto abbiamo molti più ricambi in tanti ruoli, credo che questo sia il gruppo più forte che ho, abbiamo dei ricambi nei piloni, nelle seconde linee, nei centri. È arrivato al mediano d'apertura, dice, sul mediano di apertura siamo indietro, il titolare per adesso è Gauer, che gioca sì e no nel Bayonne in Francia in top 14 quando gioca impegnato come centro, ci sono altri giocatori giovani che potrebbero salire, però per adesso fanno fatica. Grazie Giacomo Bagnasco, avremo naturalmente modo e tempo per ritornare sull'argomento, e soprattutto più tardi dalle 8:30 alle 9 avremo modo di andare seriamente sull'argomento basket dopo la grande sorpresa di ieri con Varese che ha battuto Siena e con Milano che oggi ha battuto Biella ed è da sola prima in classifica. Grazie a Giorgio De Luca per il lavoro in redazione, a Pietro Lacorte in regia, ma ci troviamo più tardi dalle 8:30 alle 9 per Palaspicchi. A tempo di sport.